Your headlights are on. Sono le ore 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa, poi ci sarà 25 o'clock. Rapidi saluti, Doriana Panico, Taranto, Nicola Locci e Maya in Sardegna, Anna qui a Roma, un saluto a Chiara, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, e presto metteremo anche un album con il suo stesso nome, Cristiano Bocci. Orlando Furioso di Radio Poderosa in quel di Torino, Antonio Zoviet di Omicidio. Omicidio, ovviamente, per chi non lo sapesse, è un ottimo progetto industrial noise. Un saluto a Tabula Rasa, Tiziano Farinacci di Pi Greco, interessante progetto di dark wave, post rock, eccetera, eccetera. Giuseppe Verticchio di NIM, Ernesto Brusati di Panico dal palcoscenico. Lui ci sta ascoltando da Varese. Ricordo che qui in radio è arrivata la Scarceranda, una delle famose autoproduzioni, leggenda del carcere, insomma, una delle più famose autoproduzioni di Radio Onda Rossa. Si può trovare qui in radio o si può ordinare anche tramite il nostro sito, peraltro utile anche per sottoscrivere per questa emittente. Ci sono le varie modalità di adesione, tra cui il 61 80 40 01, che è il nostro conto corrente postale. Cominciamo il nostro viaggio musicale con un'uscita attraverso la Dissipazio, etichetta di Nicola Quiriconi, che di tanto in tanto presentiamo attraverso i vari artisti, e ne sono tanti ormai, che incidono presso questa label esistente da qualche anno. E questa sera è il turno dei due francesi, Bruno Duplan e Julien Hiro. Insieme hanno concepito questo Nocturne Incertain, sorta di manifesto elettroacustico, con due lunghissime tracce che chiaramente non potremo sentirci interamente, ogni traccia dura mezz'ora, e quindi cominciamo con un segmento della prima, appunto, di Nocturne Incertain parte 1. Eccoli qua dunque, Bruno Duplan e Julien Hiro. Engine is on. effettivamente misterioso, come giustamente ci dice Anna, questo pulviscolo digitale, questi suoni così frammentati. Fischi misteriosi, una lunga traccia dal nome Nocturne in Certain, parte 1, che dà anche nome all'album stesso, per Bruno Duplan e Julien Hero, un duo che incide per la Dissipatio Record, disco uscito qualche mese fa. Uno dei tanti, due dei tanti artisti che dall'ispirazione elettroacustica che incidono presso questa etichetta di Nicola Quiriconi. Altri gloriosi personaggi si sono aggiunti all'ascolto. Abbiamo Flavio Derbecante di Noise Cluster, Moschita de Miramar di Ferrovia Plenizia, che ci sta ascoltando da Harlem, Alberto Creeper di MDMA e Umanima, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. Gianluca Becuzzi e Maria D'Agostini, li salutiamo. Alessandra che sta a Monterotondo, Filippo Panichi, altra eminenza grigia della sperimentazione italiana. Altro talento, Like Wake, Stefano Di Serio, un grosso abbraccio a lui. Ricordiamo questo live che ci sarà qui a Roma il prossimo venerdì al CSOA Forte Prenestino, CCCCNC, un pezzo dell'industrial storico, con l'opening delle bionde elettromagnetiche e il DJ set successivo di appunto il sottoscritto DJ Elettrodo e Eloquence Recycle, musica macchina. Presto avremo anche delle novità per quanto riguarda i live qui a Roma di un altro pezzo di storia, ma nell'ambito più gothic, prettamente gothic, trattasi del Carillon del Dolore, che suonerà il 7 gennaio qui a Roma, e presto daremo notizie più dettagliate. Ernesto Brusati dice dolcemente mesmerizzante, non male come definizione. Questo era il segmento centrale di questa traccia, la parte diciamo finale ce l'ascolteremo la prossima settimana e noi si va avanti. Lo abbiamo nominato Gianluca Becuzzi e questa sera è l'ultimo passaggio da Axis Mundi. Lo abbiamo tenuto molto nella nostra playlist perché è anche un doppio CD e meritava tanti ascolti perché è una delle opere migliori per questo artista toscano, ormai da a quasi 40 anni sulla cresta dell'onda. L'altro giorno sentivo anche Noise Trade Company, che fu un suo progetto electro rock che sfornò 3-4 album molto interessanti, oltre a Kinetics e Limbo e appunto molti album come Gianluca Becuzzi. Torniamo a Axis Mundi, ci ascolteremo un lungo minutaggio dedicato a Mystagogical Liturgy. Gianluca Becuzzi da Axis Mundi. Thank you. effettivamente trascendentale, sciamanico, ma anche con delle partiture confinanti con il doom metal, questo Axis Mundi di Gianluca Becuzzi. Una delle migliori prestazioni per lui, a mio modestissimo giudizio. Trasuda mistero, un vero e proprio viaggio interiore che consiglio caldamente. Vengono citati Neurosis, saggiamente, da Antonio Zoviet. Peraltro qui 125 Clock, che appena nomino questo Neurosis ha una sorta di eccitazione che lo prende per tutto il corpo, pizzo compreso. Lui andrà in onda alle 22:30 dopo il sottoscritto, quindi tra circa un'oretta. Ancora sorgenti sonore provenienti dall'Italia. Sfruttiamo Italian Music Survey, Anthology of Post-Industrial and Experimental Music from Italy. Un compendio ideato ovviamente da Raffaele Pezzella, spesso presente nelle nostre selezioni. Ebbene, questa sera ho estratto altri due artisti, Subterranean Souls, Andrea Bellucci con Costa Nera, e poi Antonio Tognetti con una traccia dal nome Kadosh. questo è Antonio Tonietti con questa Kadosh, che in parte può anche ricordare il sentito qualche istante fa a Gianluca Becuzzi. Lui invece Antonio Tonietti. Stasera due passaggi da questa compilation di Raffaele Pezzella dedicata alla scena post-industriale e sperimentale proprio italiana nel corso di tanti tanti anni, e questa sera nel caso specifico Andrea Bellucci con Subterranean Souls, con un brano dal nome Costa Nera, e quello più diciamo esoterico, mantrico, dal nome Kadosh di Antonio Tonietti, un artista che personalmente non conoscevo, e altri due protagonisti li ascolteremo il prossimo mercoledì. Saluto Valerio Michetti della Grazia Obliqua, Enrico Ponzoni di Sokushi Butsu Project e Cecilia Miradoli di Pindar. Comunque un'altra compilation veramente degna di nota, e ce ne sono molte in questo 2022 come tante negli anni passati, una vera e propria miniera di talenti che si possono scovare sul profilo Bandcamp, sia nella Nesplay Sounds Group, la 8 Tower Records, eccetera eccetera, la Zero K. Un patrimonio, diciamo, vastissimo. Balzo nel nord Europa, andiamo da Björk, andiamo in Islanda, andiamo da Fossora, ultimo suo lavoro dissonante con le sue particolari cifre ritmiche molto accelerate, anche in certi frangenti ultra spezzettati. Sta per partire Hello, ci sarà poi Trolla Gabba e poi la title track proprio Fossora. Questa era Fossora, ultimo lavoro per quanto riguarda Björk. In sospensione onirica, soprattutto all'inizio con la prima traccia Hello, e poi le dissonanze, i controtempi, le accelerazioni elettroniche, sia in Trolla Gab, che già nel nome poteva, come dire, essere un minimo di biglietto di presentazione, e anche le strutture audaci della title track Fossora. Una Björk che da tempo ormai si diverte un po' a sperimentare e a sorprendere per certi aspetti. Dopo gli esordi, ricordiamo, adiacenti il mainstream, ma indubbiamente di valore. Saluto intanto Miriam Genovese, risaluto Nicola Locci di Stigmate Hexagonal, Antonio Zovet afferma che c'è anche dell'afflato quasi di Nars with Wound in certi frangenti più visionari di questo album, e mi sento anche di sposare questa tesi. A dry voice. Invece adesso andiamo dai Coil, che sempre di novembre e di dicembre li tiriamo fuori per ricordare la scomparsa appunto in novembre di John Balance nel 2004 e Peter Christopherson 6 anni dopo. Una nuova versione arricchita di The New Backwards, inizialmente del 2008, e arricchita quest'anno con altre tracce, compresa questa Choir Droni Skellis.